La versione di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friend. Eccoci qua in diretta, cari ascoltatori di Radio 24. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia qui dai studi di Milano per l'ascolto diretta in podcast. Brevissimi accenni di aggiornamento al dopo Rouen della mattinata e fino a questo momento, per poi andarvi a dire l'argomento della puntata. È intervenuto il Papa alla giornata mondiale della gioventù in Polonia dicendo: è guerra ma non di religione. Dalla Francia intanto abbiamo appreso che era schedato anche il secondo terrorista, non solo il primo che era appena qualche mese fa uscito dal carcere per i suoi tentativi di andare in Siria a combattere. E quindi, come si dimostra, le risorse anche per controllare chi è ben noto alle forze dell'ordine, di sicurezza e servizi, non bastano. Nel frattempo ha parlato l'imam di Al-Azhar, uno dei maggiori centri teologici mondiali per l'Islam sunnita, e ha parlato di attacco contro i valori dell'Islam. Nel frattempo in Italia espulso un imam dall'Emilia Romagna, quindi non siamo al riparo, eh? Ecco, tanto per essere chiari, non siamo affatto al riparo. Questo per quello che riguarda i brevi flash semplicemente di aggiornamento dopo il primo attacco e il primo morto, un prete sgozzato in una chiesa europea. In realtà negli anni abbiamo visto tanti altri religiosi e tanti cristiani vittime degli attacchi del terrorismo islamista. Ma andiamo all'argomento della giornata. L'argomento della giornata, come spunto, nasce dal fatto che il Presidente del Consiglio, che in questi giorni si è dato a temi un po' fuori dalla cima dell'agenda pubblica, anche perché è evidente che gli è stato un consiglio, per così dire, di tenersi fuori dal dibattito sul referendum troppo personalizzato. Anche stamattina Mattarella è stato fin troppo esplicito rispetto alle medie dei suoi interventi, di solito molto compassati, nel dire piantatela di personalizzare questo referendum. Addirittura ha citato elementi di questo dibattito sul referendum accostandoli a elementi di surrealtà come la caccia virtuale ai Pokémon. La notizia è stata a prendere che Mattarella sa cosa sono i Pokémon. Ma detto questo, Renzi infatti si è dedicato, proprio seguendo questa pista, al rilancio delle infrastrutture. Ha dedicato una parte della sua giornata su un tratto della Napoli-Salerno-Reggio Calabria, quindi la Salerno-Reggio Calabria, promettendo che i lavori saranno conclusi entro fine dicembre di quest'anno. Inoltre, che io vi ricordi da quanti decenni è aperto quel cantiere. E allora mi sono detto: bene, prendiamo in parola il Presidente del Consiglio, torniamo con una puntata a un tema sul quale un paio di volte l'anno io intrattengo i nostri ascoltatori qui la versione di Oscar, perché i ritardi delle infrastrutture italiane sono noti, quelle energetiche ce ne siamo rioccupati con il referendum sulle trivelle e così via. Ci dimentichiamo sempre però che il più del commercio mondiale non va via terra ma va via mare, e quindi abbiamo questo problema dei porti italiani. C'è stata la riforma dei porti, tante polemiche e così via, ma io vi voglio parlare di un tema facendo una domanda in particolare ai nostri ascoltatori veneti, perché se ne parla molto poco in Italia da qualche anno. Che cos'è? È il nuovo progetto per un terminal offshore a largo 8 miglia fuori Venezia, per consentire a Venezia, sì, proprio quella Venezia su cui ci sono le polemiche che ritornano sempre sulle grandi navi da crociera che attraccano alla stazione marittima entrando praticamente nella città. Ecco, invece c'è un grande progetto strategico che oramai ha delineato le sue linee progettuali da alcuni anni, per consentire a Venezia di incrociare, di non perdere il suo ruolo, anzi di potenziarlo per quello che riguarda i traffici commerciali, in particolare per come terminal petrolifero e come terminal di containers. La particolarità di questo porto è che è costruito fuori dalla laguna, quindi per tutelare Venezia, alcune miglia a largo, e che in questo modo può contemperare, declinare insieme le esigenze ambientali con però la sfida di non rassegnarci a un'idea di Venezia esclusivamente turistica e da cartolina, come spesso nel dibattito pubblico italiano si tende a volere, alcuni tendono a volere, no? Tutelare il patrimonio straordinario di Venezia non significa per questo impedire a Venezia oggi e per il futuro di continuare a rappresentare un punto di riferimento in un traffico che in Adriatico, il traffico commerciale di Azia, dei container eccetera, in questi anni è molto aumentato dall'Asia tramite Suez, e che è una sfida da non perdere. Allora, la particolarità di questo progetto di porto, ripeto, è che sarebbe senza eguali in Italia e devo dire non con molte analogie nel resto del mondo, perché è un progetto molto innovativo con questa enorme diga foranea fuori dalla laguna e poi con un sistema carico e scarico dei contenuti anch'esso tale da tutelare la laguna. La richiesta che io faccio ai veneziani e soprattutto ai veneti in quanto tale è: ma voi lo sapete che c'è questo progetto? Vi battete a favore o contro? Ci credete? Ecco, allora, per saperne di più e per spiegarlo anche a chi non ne sa nulla, abbiamo oggi il sindaco di Venezia e il presidente dell'autorità portuale di Venezia, perché in teoria bisognerebbe immaginare che oramai le approvazioni ci sono, c'è un finanziamento europeo, fa parte del quadro delle opere su cui si è impegnata l'Italia. Adesso il problema è capire qual è il futuro di fronte a noi. Contestazioni, decenni come la Salerno-Reggio Calabria, oppure come stanno le cose? Allora, intanto grazie al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro di essere con noi qui per qualche minuto. Grazie sindaco. Grazie, buonasera. E grazie a Paolo Costa, il presidente dell'autorità portuale di Venezia, a quale molto si deve per questo progetto, a dire la verità. Buon pomeriggio presidente. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Allora sindaco, lei come la vede a questo punto? Può dire ai veneziani e ai veneti, agli italiani, che davvero si farà, in che tempi, come stanno le cose? Beh, cominciamo a dire che questo progetto, che è oggettivamente di iniziativa prima di tutto di Paolo Costa, il presidente nostro dell'autorità portuale, che poi appunto proprio lei ha invitato e sentiremo, ma vorrei ricordare che quando lui ha lanciato questo progetto io ero presidente di Confindustria Venezia. Esatto. E l'ho appoggiato fin dall'inizio, perché è una bellissima idea e ha una visione mondiale del ruolo italiano rispetto ai commerci. L'Alto Adriatico in pratica si candida, e forse solo l'Alto Adriatico lo può fare, a poter intercettare queste grandi navi transoceaniche che sempre di più potrebbero entrare nel Mediterraneo, invece che girare attorno all'Europa e arrivare nei porti del nord Europa, potrebbero entrare da Suez, che è appena stato allargato, e fare la rotta in sostanza che fa entrare tutti i commerci con la Cina, l'India, il Giappone dentro l'Europa. Però io voglio, se lei mi permette, proprio due secondi, vorrei ricordare che questa cosa si tiene anche con le navi da crociera. Mm. Nel senso che ricordo a tutti che noi abbiamo un'attività importante fatta dal governo italiano, tra l'altro spendendo tantissimi soldi, ma una grande opera di ingegneria mondiale che si chiama MOSE, che è il sistema della difesa delle dighe mobili, difesa delle acque straordinariamente alte. Quest'anno c'è l'anniversario dei 50 anni dell'Acqua Grande del 66, che ha invaso Venezia, ha devastato Venezia e la sua terraferma. Allora è stato costruito il MOSE. Costruendo il MOSE, quando il MOSE in qualche caso dell'anno, 6-7 volte pensiamo, sarà chiuso perché ci sono delle acque eccezionali, le navi possono entrare da una conca di navigazione, si chiama, che è questo varco che viene aperto davanti e poi chiuso, insomma la nave fa lo scambio di altezza dell'acqua. Questa conca di navigazione rischia, senza l'offshore che stiamo immaginando e di cui stiamo parlando oggi, rischia di declassare il porto di Venezia, perché queste grandi navi attraverso questa conca di navigazione non passerebbero, mentre invece passerebbero benissimo le navi da crociera, che noi pensiamo di continuare a far arrivare alla marittima, ma il vero tema è che non devono più passare da San Marco. Esatto. E passando attraverso questa, che è la stessa rotta delle navi commerciali, per cui proprio da un'altra parte a sud della città, potrebbero arrivare comunque alla marittima senza invece passare davanti a San Marco e al canale della Giudecca, dove tutti siamo da 8 anni contenti che non passino. Questo è il tema, per cui noi al governo chiediamo che decida intanto di darci l'ok per scavare il canale e per sistemare questa cosa delle navi da crociera, che nel frattempo continuano a passare per San Marco, e che finisca e approvi immediatamente il porto offshore, che prima di tutto è un sistema che ci traghetta tutti noi, non solo Venezia, ma tutta l'Italia, in un contesto di traffico internazionale mercantile, cosa che solo a Venezia si può fare. Per cui noi, il CIPE ci ha approvato un progetto di 100 milioni di euro che è collegato, appunto, perché noi abbiamo messo le barriere del MOSE, è indispensabile fare questo porto offshore per riparare le navi e per poter intercettare queste grandi navi transoceaniche. Spero di essere stato chiaro, ma nei pochi secondi ho cercato raccogliere un disegno unico. Io le faccio due domande per questa sua prossima risposta. La prima: agli occhi di molti, già vedo gli sms che arrivano, MOSE significa, come in tante opere pubbliche italiane, anche gli scandali poi che ci sono state per il raddoppio dei costi e tutto quello che abbiamo appreso poi con le indagini della giustizia. Lei si sente di dire che a Venezia è stato bonificato l'ambiente per gare di questo tipo prossime e future? E secondo, i tempi, secondo lei, se il governo si muove per la nuova rotta per arrivare alla stazione di crociera, dov'è oggi per le navi da crociera il terminal, e poi per il porto offshore, quanto si sentirebbe di quantificarli i tempi? Ma detto che non faccio il mago, perché evidentemente poi non sono io che decido, noi abbiamo fatto i compiti per casa, abbiamo presentato i progetti, abbiamo trovato una città d'accordo, questa volta per la prima volta nella storia comune e autorità portuale hanno presentato assieme un progetto, e questo si chiama democrazia. L'abbiamo presentato in campagna elettorale, questo è quello che la città vuole. Che poi ci siano dei comitati che, come sempre, si costituiscono per dire no a tutto, spesso no agli interessi loro, questo è un dato di fatto che resterà sempre. Ma la città ha una posizione chiarissima: non ascoltare la città vorrebbe dire veramente di mancare di rispetto alla città. Secondo, sulla trasparenza e l'onestà non c'è mai limite, non si fa mai abbastanza. Attualmente posso dire che il MOSE è commissariato, ci sono tre ottimi commissari che stanno cercando tutto quello che è successo in passato, e lì se ne occuperanno loro e la magistratura. Io in questo momento faccio, nella mia modestia, il sindaco, e cerco invece di valorizzare l'opera ingegneristica, che è di grandissima capacità tecnica, e dobbiamo ringraziare le nostre aziende, i nostri ingegneri, le nostre maestranze, è un'opera unica al mondo. E devo dire che sui tempi della messa in funzione dipenderà anche molto da quanto il governo vorrà metterci la testa. Mi spiego. Allora, noi abbiamo chiesto di avere i poteri, e c'è una norma di legge che dà l'obbligo di dare i poteri all'ex magistrato alle acque, al sindaco metropolitano di Venezia, che sono sempre io, cioè io sono sindaco di Venezia e anche sindaco metropolitano. Per cui questo decreto, credo la bozza dovrebbe essere pronta, spero che ci sia dentro anche l'autorità sul MOSE, oltre che sui canali della Laguna di Venezia, perché lì non abbiamo noi l'autorità, ma ce l'ha il magistrato alle acque, anzi ex magistrato alle acque, il provveditorato al porto, il provveditorato ai lavori pubblici, scusate, e lo stesso vale per le bonifiche di Porto Marghera. Se assieme, anche stamattina ho parlato col ministro Del Rio, riusciamo a concertare una strategia comune, perché l'interesse comune deve essere comune, io su questo sono filo governativo, filo tutto, l'importante è che le persone che lavorano, il mondo del lavoro, delle persone che faticano, siano sempre difese. Io dico trasparenza massima, sempre mai abbassare la guardia, perché abbiamo visto che io posso parlare dei fatti nostri, ma vedo che insomma sta cosa è diffusa poi in tutto il mondo. Per quanto ci riguarda, non c'è nessun dubbio che l'onestà, io sono convinto che sia un valore, non è un impedimento, deve essere un valore, un vantaggio, ma oltre a questo ci deve essere la capacità tecnica per fare le cose. Poi se ci danno i poteri, noi faremo un'operazione verità immediata, racconteremo a che punto siamo. Io so che questi commissari stanno lavorando bene, si impegnano, credo che la città possa dare un grosso contributo se viene appunto chiamata a questa responsabilità, perché non basta aspettarsi che l'opera sia finita, bisogna costruire le condizioni, capire bene qual è lo stato del progetto e cominciare a fare le prove per capire quanto costerà di manutenzioni, chi e come andrà fatto, in che modi. Ecco, io credo che questa roba va fatta da subito, spiegando tutto ai cittadini in maniera trasparente. C'è il mondo intero che ci guarda, è una buona occasione, guardi un po', io penso, per fare una figura straordinariamente bella per noi e per l'Italia. Comunque, e anche, insomma, lo avrete capito, il tono di piena cooperazione del sindaco Bugnaro, lo ricordo, ex imprenditore, ma mi ha detto col centrodestra, il sindaco, eccetera, eccetera. Speriamo, come devo dire, speriamo, perché io questo progetto di cui sono a parte da anni e che conosco da anni, in realtà non ho mai visto visto anche l'informazione italiana, crederci davvero, come devo dire. Allora, intanto grazie al sindaco che restituiamo le sue attività istituzionali, tra un minuto torniamo e andiamo a quel punto con uno che è uno dei più grandi ideatori, l'anima un po' di questo progetto, per farcelo spiegare meglio a chi probabilmente non ha capito cosa vuol dire fare un porto offshore 8 miglia fuori con un grande sistema per attirare navi fino a 18.000, 20.000 container rispetto alle 5-6.000 che possono entrare oggi e dannatamente entrano poi in laguna a questo punto, mentre così le teniamo fuori dalla laguna, però le attiriamo di quei volumi di traffico e anche per evitare poi guai irreparabili in caso di incidenti a petroliere all'interno della laguna. Torniamo tra un minuto con Paolo Costa. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta per sottoporre alla vostra attenzione un grande progetto infrastrutturale in cui io credo molto, credo che potrebbe avere un enorme impatto, devo dire, di moltiplicatore economico per intercettare flussi che altrimenti perdiamo. Sì, incredibilmente a Venezia, però con un grande terminal offshore, qualche miglio fuori Venezia e dalla laguna, così tuteliamo l'ambiente. Abbiamo sentito il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, dirci a che punto sta la cooperazione con il governo. Comunque attiva su questo, e con noi anche il presidente dell'autorità portuale di Venezia, Paolo Costa, a cui si deve in realtà la fiducia, la voglia anni per anni di lavorare a questo progetto. Io le ribadisco il grazie, ma posso chiedere un secondo di spiegare meglio, perché molti ascoltatori non capiscono cosa vuol dire un porto offshore miglia fuori, come si collega? Alcuni pensano che ci sia un'enorme banchina di miglia e miglia. No, il progetto nasce dalla combinazione di una necessità: risolvere il problema di far sopravvivere il porto di Venezia, farlo diventare una virtù, farlo diventare una grande occasione per il paese, non soltanto per Venezia. Come si fa? Le condizioni perché l'Italia rimanga dentro la trama dei traffici mondiali, quelli importanti, sono due: che si riesca ad attrezzare dei porti capaci di ricevere anche le navi da 18.000 TEU e oltre, che sempre più si stanno costruendo, e in questo momento nessun porto italiano è in grado di riceverle. Attenzione, non di ricevere la nave, ma di gestire i carichi. Esatto. Perché 18.000 container significano, che ne so, 18.000 camion, il retroporto, il nodo infrastrutturale e così via. Bene, qual è il punto? Immaginato noi, è che per fortuna Venezia non è solo la meravigliosa e splendida insieme di 118 isole che giustamente viene riproposta al mondo, ma sono anche quasi 2.000 ettari di ex zone industriali a Marghera, che abbandonate per lungo periodo e che sono uno spazio enorme capace di fare da polmone per grandissime quantità di traffico, o addirittura, proprio sfruttando le attrezzature che Marghera aveva, pensi che Marghera ha 150 km di ferrovie dentro, sì. Marghera stessa ha una capacità di inoltro ferroviario che negli anni 60 era tre volte quella che dobbiamo oggi, e quindi, come dire, ha un insieme di infrastrutture inutilizzate, che utilizzando le quali è possibile immaginare di gestire i grandissimi carichi. Questo è il punto fondamentale. Come fare questo? Due sono le cose, è il momento della montagna: o portavamo le navi grandi dentro Venezia o andavamo a prendersi le navi fuori. No? E quindi, diciamo, in questo caso, il momento si è messo in spalla. Allora, a largo a 8 miglia a largo, è solo un molo foraneo che ha, da una parte arriveranno le grandi navi, dall'altra ci saranno delle cosiddette mama vessel, li chiamiamo noi, che sono mama perché sono delle navi che contengono due contenitori che tengono fino a 400 container l'uno. Questo sistema fa sì che la nave grande arriva lì e viene trattata come se fosse a Rotterdam, come se fosse a Le Havre, in qualsiasi porto che ha tutti i fondali di questo mondo. Nelle sue 24 ore scarica tutto, perché le scarica dove? Le scarica su delle cassette flottanti, questi contenitori flottanti, in cui scarica tutto e se ne va via. Quindi la nave ottiene tutti i servizi che otterrebbe in un porto con grandissimi fondali. Dopodiché queste cassette flottanti vengono a due alla volta raccolte da queste mama vessel e portate o a Venezia, o a Chioggia, o a Ravenna, o a Mantova, perché questo è il sistema, non è un sistema che riguarda solo la destinazione Venezia, in modo tale che possano venire inoltrate utilizzando infrastrutture esistenti in questi luoghi, e quindi non dobbiamo ricostruire porti o buttar via porti che abbiamo in questo momento, ma soprattutto rendendo sostenibile il traffico, perché nessuno, insisto, dei porti italiani potrebbe consentirsi di avere questo flusso di camion, questo flusso di treni soltanto in un punto solo. Bene, per fare questo ci sarebbe un continuo movimento di navi assolutamente, di piccole navi, assolutamente sostenibili, perché andrebbero a gas naturale liquefatto, impatto zero ambientale, impatto zero sulla laguna, cioè studiate, queste costruite da BM Triton, cioè disegnate BM Triton, che è la società che si occupa di sommergibili in Inghilterra, perché sono semiaffondanti, adesso non spiego le tecnicalità, ma insomma l'idea è arriva la grande nave scarica tutto, viene scaricata su delle cassette flottanti, queste vengono un po' alla volta distribuite in quattro punti a terra, dove poi partono per treno, per ferrovia e si inoltrano dove? Questo è l'altro punto fondamentale. Nella pianura padana, nella Germania meridionale e guardando un po' più ad est, verso l'Austria e così via, che è la nuova area di industrializzazione europea, perché l'altro fatto, come dire, che non dobbiamo perderci è che il mercato europeo della manifattura si è andato spostando da ovest verso est. Verso est, sì. E noi siamo nel punto oggettivamente, tecnicamente, è più vicino a questo. Quindi metto insieme le tre cose. Possiamo ricevere le grandi navi. Cosa vuol dire le grandi navi? Vuol dire che nella tratta da Shanghai fino a Venezia il costo per container, sia del trasporto che gli effetti di inquinamento, sono i più bassi possibili, perché dobbiamo le navi più grandi possibili, che il sistema di distribuzione è un sistema sostenibile, perché non si punta in un punto solo ma ne investe 4 o 5, quindi riesce ad utilizzare, che utilizza infrastrutture esistenti e che è il più vicino al mercato più grande che in questo momento c'è in Europa. Se mettiamo insieme queste quattro cose, noi possiamo soddisfare le due condizioni che ormai da due anni mi sento ripetere in Cina e in altri paesi che vi vado a presentare questo progetto, che sono queste. L'Italia può diventare la porta di entrata meridionale al mercato europeo a due condizioni: che sia in grado di ricevere queste navi, e questo sistema rende sostenibile questo modo di riceverle, e che lo possa fare per volumi di traffico che siano almeno di 6-7 milioni di TEU complessivamente intesi, che sono un terzo del traffico tra l'Europa e la Cina. 6-7 milioni di TEU che nessuno vuole fare a Venezia soltanto, perché l'altra quarta fortuna che abbiamo è che siamo il lato ovest, diciamo, dell'Adriatico, mentre dall'altra parte, lato est, ci sono Trieste, Capodistria e Fiume. C'è un sistema portuale di tutto il nord Adriatico che riesce. In questo modo, per cui il nostro progetto è un progetto che innesca una crescita dell'intero sistema alto adriatico, e quindi avrebbe la possibilità di muoversi ad ovest su Venezia, ad est su Trieste, e poi in collegamento con Koper e Rijeka, o Capodistria e Fiume, come potremmo continuare a chiamarli noi, e avremo questa possibilità di avere questa grande occasione. È un'occasione, è una finestra che abbiamo a disposizione. Ma quanto costa e in che tempi è realizzabile una volta che il governo davvero ci creda e parta in quarta su questo? Se mi diceva di sì due anni fa l'avremmo già finito, quindi i tempi tecnici di realizzazione sono due anni. Di questi un anno e mezzo è incomprimibile, perché diciamo che le tecniche di costruzione a cassone di questo prevedono di riempire con delle sabbie che devono stabilizzarsi, perché immagini quali sono i pesi che vengono sopportati da questa cosa. Ma al di là di questo, perché ho solo un molo foraneo, non è mica niente di più da fare lì dentro, perché l'idea è che noi sfruttiamo cose che esistono già. Sfruttiamo gli impianti, anche qui non buttiamo via i porti, perché altrimenti per fare un porto che riceva quelle navi che dico io prima bisogna rifare tutto da capo. No, c'è dubbio. Qui invece noi utilizziamo il porto di Venezia che c'è, il porto di Chioggia che c'è, il porto di Mantova, attenzione, anche l'unico sistema di navigazione interna che l'Italia può sfruttare, i porti di Ravenna e così via, cioè tutti quelli di qua, ma che non avendo fondali. Ma è credibile che il tutto stia, un costo allora, stimato per la realizzazione di tutto questo in 2,1 miliardi? Il 2,1 miliardi comprende anche l'offshore, il termine petrolifero di cui non ho parlato. Questo ho parlato solo di container finora, giusto? Sì. Questo, quello che dico, diciamo che la diga costa 800 milioni. La diga e il molo foraneo, diciamo, è il termine container fisico. Poi ci sono altrettanti investimenti che noi immaginiamo faccia il privato, perché l'idea è che noi puntiamo a ottenere almeno il 50% di investimento da il possibile utilizzatore. E devo dire che, questa volta mi consento di dirlo, ho tre accordi pre-commerciali che attendono una sola condizione. Se il governo italiano ti dirà di sì, is your government backing you? Questa è l'unica domanda che mi fanno in giro per il mondo. Dall'Asia. If yes, 800 milioni, 700, 800 e milioni. E che impressione hai istituzionale? Ci siamo oppure no? Ci siamo di più, nel senso che naturalmente di fronte a una innovazione, perché tale è, insomma, no, non sperimentata in giro per il mondo, anche se devo dire in questo momento negli Stati Uniti, per motivi completamente diversi, intuitivamente la paura che arrivi la nave con la bomba dentro il container che arriva a Baltimora, a New York, si immagina di fare fuori un paio di questi offshore, bene, uno fuori davanti a New York e uno davanti a New Orleans, però insomma questi sono motivi completamente diversi. Però la tecnica costruttiva è la stessa, infatti siamo in contatto con tutti questi che in giro per il mondo si occupano di questi giocattoli, diciamo. No, mi pare che l'atteggiamento, una volta che abbiamo fatto capire e che hanno capito il Ministero degli Esteri, per esempio il Ministro Gentiloni, in un recente incontro che abbiamo fatto con i cinesi, ha intuito, ha capito. Ha capito che anche a loro interessava. Io devo dire la verità, lo dico al sindaco, lo dico al presidente del porto, qui le reazioni sono di scetticismo generale, anche le telefonate, Alessandro e altri dicevano non ci crediamo minimamente, si infrangerà, non si farà. Ragazzi, però se ci condanniamo a questo l'Italia poi va giù. Grazie al presidente e al sindaco, continuate con la 24, appuntamento con me Alessandro Milan, domani mattina alle 8:15, attenti noi due.